giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trovato nel lago di Barcis il corpo di Giulia Cecchettin, scomparsa sabato scorso da Venezia con l'ex fidanzato Filippo Tureta, in azione anche droni e cani. Una messa in Marileng per ringraziare la CEI dopo lo stop al Messale, l'iniziativa di Iglesias e Furlane. Più lavoratori che pensionati, Friuli Venezia Giulia, tra le 8 regioni con un saldo degli attivi ancora positivo. Assunzioni stabili in regione, ma il rallentamento si nota nel manifatturiero, settore del mobile, maglia nera. 200 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti nella casa di un 22enne arrestato dalla polizia di Trieste. Frana di Clauzzetto, la regione interverrà posizionando una condotta in acciaio per smaltire l'acqua del Rio Molino. 12:31, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. In apertura subito la cronaca con una notizia che è stata resa nota poco fa. È stato trovato questa mattina, infatti è stata la notizia arrivata da poco, è stato trovato insomma questa mattina nel lago di Barcis dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa sabato scorso da Venezia assieme all'ex fidanzato Filippo Tureta. La notizia è stata confermata alla TGR dai carabinieri presenti sul posto. Nessuna informazione ancora sulla sorte di Tureta. Le ricerche a Barcis, iniziate ieri anche con l'ausilio di cani, droni e di un elicottero, erano riprese questa mattina alle 7. La località pordenonese si trova lungo la direttrice obbligata che l'auto del ragazzo aveva seguito nella notte tra sabato e domenica. La vettura era infatti stata ripresa a Caneva, quindi a Polcenigo, e poi a Piancavallo e all'uscita delle gallerie tra Erto e Casso e Longarone. Da ieri Tureta era indagato con l'ipotesi di tentato omicidio aggravato dopo il ritrovamento a Fossò, in provincia di Venezia, di macchie di sangue sull'asfalto e le immagini registrate dalla telecamera di sicurezza di un'azienda che mostrerebbero il giovane aggredire la ragazza e caricarla poi in auto. È stato diramato dall'Interpol anche un mandato d'arresto europeo. E voltiamo ora a pagina, ci saranno nuovi aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale e del giornale radio su questa notizia. Voltiamo pagina perché continua a far discutere in regione il mancato via libera della conferenza episcopale al Messale in lingua friulana, una vicenda su cui è intervenuto ieri anche il governatore Fedriga in questo servizio. Sentiamo che cosa ne pensa chi ha realizzato quella traduzione in marilenghe e la voce del mondo culturale e religioso friulanofono. Un'occasione persa per rimediare a una situazione definita dagli esperti assurda. Le messe in friulano ci sono, ma non riconosciute ufficialmente. Le letture in friulano sono state approvate dalla Chiesa, così come la traduzione della Bibbia, ma non ancora le preghiere della messa, quelle contenute nel Messale. In settimana la Conferenza Episcopale Italiana, che riunisce tutti i vescovi, si era riunita in assemblea straordinaria e uno dei punti all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione della traduzione del Messale, non ha raggiunto la maggioranza qualificata. Potrebbe trattarsi di un grande equivoco, come indica uno dei tre esperti che ha terminato quest'anno la traduzione del Messale dall'italiano al friulano, il professor Gabriele Zanello. Il voto è stato interpretato come un voto sul friulano come lingua liturgica, invece che una votazione sul merito tecnico della correttezza della traduzione. Inoltre mancavano all'appello tanti vescovi e anche questo ha influito sul mancato raggiungimento del quorum. Tuttavia si è ottenuto proprio l'effetto non desiderato, la trasformazione di una votazione in un caso politico. Il presidente Fedriga ha scritto al presidente della CEI, il cardinal Zuppi, diverse le prese di posizione degli amministratori locali, accalorate le chat interne agli ambienti ecclesiastici. Anche perché il Messale aveva avuto via libera unanime dalla conferenza episcopale triveneta nei mesi scorsi. Un iter preparato negli anni dalla diocesi di Udine, Gorizia e Pordenone. Persa un'occasione per sanare una situazione anomala, perché il criterio da seguire per la Chiesa è quello delle lingue riconosciute dallo Stato, aggiunge Zanello. In Spagna si celebrano ufficialmente messe in 4 lingue. Si dice amareggiato Monsignor Mazzocato, vescovo di Udine, ma assicura di aver avuto la disponibilità dal Cardinal Zuppi a continuare l'interlocuzione direttamente con la Santa Sede, con il Dicastero del Culto Divino, per cercare una soluzione. Intanto, Iglesias e Furlane ha dato appuntamento a domenica 26 novembre a Villanova di San Daniele con una messa per ringraziare ironicamente la CEI, rigorosamente par Furlan. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è una delle 8 regioni italiane in cui il numero degli occupati è superiore, sono 14.000 in più, a quello delle pensioni erogate. I lavoratori sono infatti 521.000, mentre i pensionati 506.000. Ad affermarlo è uno studio della CGA di Mestre su dati INPS e Istat. Le altre regioni in cui questo dato è positivo sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige e Piemonte, mentre in tutte quelle del sud i pensionati superano i lavoratori attivi. In regione spiccano i risultati positivi di Pordenone, in cui gli occupati sono 15.000 in più dei pensionati, e in piccolissima parte di Udine, 1.000 in più, mentre a Trieste il saldo è in pareggio e a Gorizia invece è negativo, meno 2.000. Secondo la CGA, anche in Friuli Venezia Giulia il trend è destinato tuttavia a peggiorare, data la progressiva riduzione della base occupazionale. Entro il 2027 usciranno dal mondo del lavoro 65.000 addetti e negli ultimi 10 anni i giovani in età lavorativa sono diminuiti di 5.300 unità. Ancora lavoro in Friuli Venezia Giulia. Le assunzioni nel periodo gennaio-settembre sono state 207.000, più 0,7%, anche se con un calo vistoso nel manifatturiero, oltre 9 punti in meno, mentre i contratti a tempo indeterminato e le stabilizzazioni sono scese del 7%. Nel terzo trimestre dell'anno, e l'analisi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, le assunzioni in regione sono state nel complesso 68.000 circa, in diminuzione del 3% rispetto al secondo trimestre. Il risultato negativo del periodo luglio-settembre si deve soprattutto al mese di agosto, in cui le assunzioni sono state il 16,3% in meno rispetto a quelle di agosto dell'anno scorso. Sempre nel terzo trimestre di quest'anno in calo anche le cessazioni dei rapporti di lavoro, comprese le dimissioni volontarie, che però rappresentano ancora la maggioranza delle cessazioni dal tempo indeterminato, quasi 7 su 10. A compensare il decremento delle assunzioni nella manifattura, con il settore del mobile calato di oltre il 24%, c'è l'aumento del terziario, soprattutto nel comparto alberghi e ristorazione. In contrazione, invece, il volume di assunzioni nelle costruzioni. Nell'ambito dei servizi spicca il sensibile aumento delle assunzioni del settore magazzinaggio e trasporti, più 149%. Le assunzioni a tempo determinato sono nel complesso 103.000 circa la metà del totale. Crescono anche il lavoro somministrato e intermittente, più 8%, e i parasubordinati. Considerando genere ed età, infine, si nota la diminuzione della componente femminile e di quella dei giovani, meno 5,5%. Inclusione delle comunità straniere a Monfalcone, necessità di normare il fine vita sono i due argomenti affrontati dal presidente nazionale di Più Europa, Federico Pizzarotti, nella sua visita nella città dei cantieri. Le contrapposizioni etniche servono solo al tornaconto elettorale delle destre populiste. L'unica strada percorribile è quella dell'integrazione e dell'inclusione. Ne è convinto Federico Pizzarotti, che nella sua visita a Monfalcone entra nel merito della polemica più recente e ribadisce la necessità che le comunità straniere abbiano anche luoghi di culto. Proprio per non isolare le persone, ma per includere in un tessuto socio-economico che le faccia diventare a tutti gli effetti cittadini italiani, integrati, ma soprattutto parte della comunità anche economica. Una presenza servita all'ex sindaco di Parma e oggi presidente di Più Europa anche a ribadire il suo sostegno alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare in materia di fine vita e alla mozione sullo stesso tema che va in aula mercoledì prossimo. Un'importante scelta di progresso e di libertà che in tutta Italia si stanno presentando e cui vogliamo arrivare, perché la libertà è un qualcosa di importante per tutti noi nelle scelte anche difficili della vita. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca. La polizia di Trieste ha sequestrato oltre 200 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti in un'abitazione del rione di Valmaura. Nella perquisizione disposta dalla procura, gli agenti del commissariato di San Sabba si sono subito resi conto che il tenore di vita del 22enne albanese, privo di permesso di soggiorno, che viveva nell'alloggio, era evidentemente superiore rispetto alla sua attività lavorativa dichiarata. I poliziotti hanno trovato i primi 30.000 euro in una borsa con le banconote avvolte in due confezioni di cellophane. Ulteriori ricerche hanno fatto trovare un pezzo da circa 212 grammi di cocaina, 8 palline della stessa sostanza, 4 pastiglie di ecstasy e altro materiale. Anche la droga era nascosta in scatole, pacchetti di sigarette, tasche di giubbotti, barattoli di latta, borse sportive e guanti da box. Sul posto è intervenuta anche la squadra cinofili della Guardia di Finanza, che ha scovato altro stupefacente nell'auto del giovane, che è stato arrestato e portato in carcere. E la polizia di Trieste ha anche sequestrato a due pregiudicati capi di abbigliamento e scarpe di note firme di moda di ingente valore. A indirizzarli il fermo di un cinquantenne italiano in via Battisti. Nella sua auto avevano trovato capi appena rubati da un negozio cittadino che ne aveva denunciato il furto. La procura ha in seguito emesso un decreto di perquisizione personale e locale a carico dei due indagati che è stato eseguito nei giorni scorsi. Sopralluogo della regione questa mattina sulla frana di Clauzzetto, una delle conseguenze dell'ultima ondata di maltempo, con la ex provinciale 22 chiusa al transito in quel tratto per motivi di sicurezza. Il cedimento del versante ha causato la quasi completa occlusione di un corso d'acqua che ha creato un piccolo lago, mentre nella parte più bassa un tombotto riversa ancora materiale fangoso sulla carreggiata. L'assessore alla protezione civile Riccardi, sul posto con il direttore Aristei e il sindaco Giuliano Cescutti, ha comunicato che si interverrà con una prima riduzione dei volumi idrici e in seguito si procederà all'incisione del piede della frana e al posizionamento di una condotta in acciaio per smaltire le portate ordinarie di afflusso lungo il rio Molino, così da cercare di evitare l'ostruzione dell'alveo anche nell'eventualità di un ulteriore scivolamento della frana. In relazione all'apertura della viabilità della ex provinciale 22, un nuovo vertice, anche con l'assessore alle infrastrutture Amirante, sarà convocato a breve. E ora uno sguardo al meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 14,5 gradi, a Gorizia e a Pordenone 11 gradi, a Udine 13 gradi, a Tolmezzo e a Forni di Sopra 8 gradi, a Tarvisio 7,5 gradi, a Sappada 3,5 gradi, sul Piancavallo 6 gradi, Monte Lussari 0,5 gradi sotto lo zero, Monte Zoncolan 1,5 gradi positivo, sulla costa Lignano e Grado 11,5 gradi. Queste le previsioni. Nel pomeriggio cielo variabile per velature in quota. Domani fino al mattino cielo in genere nuvoloso per nubi medio-alte. In seguito deciso miglioramento a partire da nord con cielo in prevalenza poco nuvoloso. In montagna inversioni termiche con zero termico in risalita a 3.000 metri circa. Entra nel vivo oggi la 20ª edizione del premio giornalistico Lucchetta, 7 i focus che vedono la presenza dei vincitori e dei finalisti delle sezioni del premio. Tutti in scena al Miela di Trieste. Siamo al Teatro Miela dove sono in corso le giornate del premio Lucchetta. Oggi diverse ore di dibattiti che culmineranno alle 20 con una discussione su ciò che riguarda un po' tutti noi, non solo, anche e soprattutto chi ha figli minori, cioè come i social, come il telefono, come il mondo delle notifiche infinite impatta sulla nostra vita e sul nostro cervello. Ci sarà anche Iacona, il collega Rai, che è il titolare della trasmissione d'inchiesta Presa Diretta, a dirigere queste giornate, anche segretaria del premio Lucchetta, Fabiana Martini, a cui chiediamo appunto come sta andando questa 20ª edizione, se è in linea con le vostre aspettative. Sì, assolutamente sì, siamo molto soddisfatti soprattutto della partecipazione del pubblico. Ieri a Revoltella c'è stato veramente un tutto esaurito, tantissime persone interessate a, come dire, dibattere, ad ascoltare i nostri ospiti sul conflitto israelo-palestinese. Anche oggi, insomma, nonostante sia appunto un fine settimana, molte persone qui ad ascoltare chi parla di cambiamento climatico, ma anche di Ucraina, di guerre dimenticate, quindi direi che insomma l'intenzione di coinvolgere la cittadinanza nell'attualità insomma è stata centrata. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una storia che riguarda un'intera comunità, quella di Cave del Predil, che dopo un periodo di espansione economica legato alla presenza di una delle più importanti miniere europee di piombo e zinco, è stata abbandonata al proprio destino. La racconta la regista Anna Sandrini in Avenal, un film documentario a cui ha collaborato anche la Cineteca del Friuli, che oggi alle 18 l'autrice presenterà al Cinema Sociale di Gemona. Le abbiamo chiesto com'è nata l'idea del film. Io sono di Tarvisio, quindi diciamo che conosco la storia di Cave del Predil da sempre. Andando avanti insomma con i miei studi e con la professione che mi sono scelta, è nato questo desiderio di fare appunto un lavoro documentaristico su quella storia, su quella realtà. Quali sono le testimonianze che l'hanno colpita di più nel lavoro di ricerca e poi di montaggio? L'incontro con la comunità di Cave per me è stato molto bello, perché veramente ho trovato un'accoglienza e un calore che non è scontato, ecco. Evidentemente è una comunità che ha vissuto un trauma, ecco, un passare da una situazione lavorativa stabile, da una condizione insomma di agio e di ricchezza, che era quello che per molto tempo si è vissuto lì, passare da questo a un abbandono, ecco, e una fine di una realtà che è stata la stessa per molto tempo, chiaramente è una cosa che lascia un segno profondo, no, in una comunità. Qual è l'attualità di raccontare oggi una storia industriale di questo tipo, una storia di montagna di questo tipo? Sì, beh, io credo che al giorno d'oggi, ecco, va un po', giustamente, va molto il discorso della sostenibilità, il discorso dell'ecologia, che ovviamente è giustissimo, e credo che però in questi territori, nei nostri territori di montagna, l'ecologia debba partire proprio dal prendersi cura dei luoghi. Quindi non è che il nostro passato industriale può essere semplicemente dimenticato, no? Come se non fosse mai successo, perché vogliamo passare a altro. Credo che sia importante prenderci cura proprio anche del nostro passato industriale, trasformandolo in un patrimonio culturale che ha un valore e che va appunto sostenuto e mantenuto. Partirà la prossima settimana eccezionalmente da Napoli in direzione Antartide la nave rompighiaccio Laura Bassi dell'OGS di Trieste, impegnata nel programma di ricerca nazionale in Antartide. Nave triestina, ma a bordo tanti napoletani, a partire dai ricercatori, tecnici e dottorandi dell'Università Partenope, che navigheranno tra la Nuova Zelanda e l'Antartide per partecipare alla 39esima spedizione italiana in Antartide. La campagna oceanografica durerà circa 2 mesi, tra gennaio e marzo prossimi, permettendo di indagare la variabilità oceanografica dell'Oceano Meridionale e del Mare di Ross e il loro impatto sul clima globale. Torna a Pordenone uno degli eventi fieristici di maggior successo per l'ente della Destra Tagliamento, la Fiera del Radioamatore. Noi siamo venuti a farci un giro così per guardare un po' le novità. Cosa le interessa? Tutti gli anni, più che altro informatica e il padiglione dei radioamatori. Che lei è un radioamatore? Ci sto provando. C'è il mondo degli appassionati di elettronica e informatica in fiera a Pordenone per Radio Amatore 2 in contemporanea alle manifestazioni Games & Co. e Fotomercato. 260 espositori in 8 padiglioni per 22.000 metri quadrati di superficie espositiva. Questo qui ormai, diciamo, non è obsoleto, però solo per i veri appassionati. Il resto è nuova tecnologia, quella lì quella interessante. Alain Modolo, presidente del Pordenone Linux User Group. Usiamo solo software libero, lo facciamo con le scuole, lo facciamo per hobby, lo facciamo soprattutto per lavoro. Spazio anche a giochi, fumetti, fantasy e cosplay. Che cosa vi attira di questo mondo? Preparare il personaggio che più ci piace, anche la fantasia e anche ricordi d'infanzia. Antonio Verdichizzi è responsabile della manifestazione. La grande novità di quest'anno è una grandissima area di oltre 1000 metri quadrati in cui si possono trovare oltre 50 cabinati in cui si possono ripercorrere i momenti salienti della vita dei giochi degli anni 80 e 90. Meglio dei videogiochi moderni? No, meglio dei videogiochi moderni no, però è sempre bello vedere l'evoluzione, quello sì. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sono oltre 150 gli espositori da tutta Italia a Udine per Idea Natale, rassegna dedicata alla festività più attesa dell'anno. Alla Fiera di Udine ha aperto i battenti la 34esima edizione di Idea Natale, la vetrina per idee regalo e utili suggerimenti per addobbare la casa e la tavola delle feste. Oltre 150 espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia, ma anche un ricchissimo programma di oltre 30 eventi gratuiti per tutte le età. Tanti settori, spazio anche ai vini e ai prodotti del territorio, show cooking e corsi di cucina con i cuochi, degustazioni. Stazioni guidate gratuite nella rassegna spumante per le feste, cicloturismo solidale con appuntamenti per gli amanti della bicicletta sotto l'albero, presentazione di libri con gli autori. Tra le novità dell'edizione, il prolungamento della manifestazione di un giorno sino a lunedì 20, ma non solo, Idea Natale è anche solidale, mostrando e valorizzando l'inestimabile impegno e il frutto dell'operato del terzo settore, del volontariato, del non profit, creatività, solidarietà e anche impegno sociale, con la presenza di realtà e istituzioni come la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, che intercettano e combattono il disagio e la violenza di genere, con particolare riguardo alla violenza sulle donne. Il presidente di Udine Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza. L'idea Natale diventa solidale, lo è sempre stato in realtà. Ed ecco l'idea che è nata con CUSIG, ovvero di coinvolgere l'Associazione Autistici Friuli Venezia Giulia per una raccolta fondi. E così i ragazzi si sono adoperati per realizzare una bicicletta e assieme a loro Gianni Borta, un fil rouge da Casa Moderna, e quindi hanno creato queste due opere che verranno messe all'asta. I fondi verranno poi destinati alla realizzazione di un villaggio che ritengo prenderà il nome di Enzo Cainero per i ragazzi appunto autistici. L'incontro avrà come testimonial sportivo Alessandro Ballan, ultimo campione italiano ad aver vinto un mondiale. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre a Udine torna l'appuntamento con Compra in Bottega a Palazzo Eden in Piazza Belloni da oggi al 7 gennaio. L'iniziativa, promossa da Confartigianato Udine e CNA FVG, si propone di diffondere il saper fare friulano e di promuovere la creatività delle imprese del nostro territorio. All'interno dello spazio, ricca selezione dei migliori prodotti artigiani, tra cui abbigliamento, calzature, bijou, ceramiche, birre artigianali, biscotti, cioccolatini e molto altro, realizzati da 25 imprese dei settori agroalimentare, moda e artigianato artistico. A novembre, aperto sabato e domenica, a dicembre ogni giorno dalle 10 alle 19. E sarà presentato questo pomeriggio a Udine il calendario 2024 dell'Associazione Friulana Oncologica Pediatrica Luca, che da ormai oltre 20 anni aiuta le famiglie dei bambini oncologici, alle 16 al Museo Etnografico del Friuli di Udine, mentre torna anche la raccolta fondi natalizia solidale di Aspiag, concessionaria di marchi Despar, Eurospar e Interspar anche nella nostra regione. Dal prossimo 20 novembre all'11 dicembre i fondi in Friuli Venezia Giulia saranno destinati alla Casa di Joy, organizzazione no profit con sede a Udine che si occupa anche questa di bambini malati oncologici, offrendo supporto alle famiglie durante e dopo la malattia. Si tratta del più aggiornato atlante dello spreco alimentare in Italia e nel mondo. Il volume dell'economista Andrea Segre e del direttore scientifico dell'Istituto Ipsos Enzo Risso, dal titolo appunto Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo, che individua le principali azioni pubbliche e private necessarie per contrastare il fenomeno. Segre lo presenterà oggi in dialogo con Gianmario Villalta alle 18 alla Casa dello Studente di Azzano Decimo. Alcune segnalazioni di appuntamenti: Leonardo Manera porta il monologo Homo Modernus all'Auditorium Comunale di Zoppola alle 20.45, domani al Teatro Clabassi di Sedegliano alla stessa ora. Cumbinin, Intrix e Poesie, il nuovo spettacolo in lingua friulana italiana scritto dal trio teatrale del Teatro Incerto con Marina Del Piccolo, sarà al Teatro Pasolini di Cervignano alle 20.45 per la stagione del Teatro Stabile d'Innovazione. Cantare l'autunno a Palmanova, presentazione in anteprima del brano composto dai ragazzi del laboratorio di songwriting promosso dalla cooperativa Tiele, condotto da Marco Anzovino alle 18 alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni. Anzovino per l'occasione presenterà anche il suo ultimo romanzo Alla fine dei baci. E a Udine alle 15 partirà il 112esimo convegno sociale della Società Alpina Friulana, che nel 2024 celebrerà i 150 anni dalla fondazione. Quest'anno il convegno è dedicato a Celso Gilberti, alpinista. Sarà inaugurata l'area verde a lui intitolata davanti alla sede della società, alla Casa delle Associazioni di via Brigata Re. Celso Gilberti morì nel 1933 a 23 anni mentre scalava la Paganella in Trentino. A Prodi il tagliamento e i suoi passaggi dalla sponda di Pinzano a quella di Ragogna, Molino Rosenkranz promuove la diffusione dell'audiolibro sul territorio in questa giornata. E domani tornano le rubriche della TGR del Friuli Venezia Giulia. In televisione, sul terzo canale alle 11.05, andrà in onda Est-Ovest, una finestra di approfondimento sull'attualità dell'Europa orientale e dei Balcani. Sentiamo il sommario. La comunità ebraica di Varsavia, la memoria della Shoah, l'unità per Israele, le preoccupazioni per l'antisemitismo strisciante. Il presidente eletto Nerinkevich ai microfoni di Est-Ovest incita l'Europa a rimanere unita nel contrasto all'imperialismo di Putin. Cassia Smutniak firma la regia di Mur, documentario sul dramma degli immigrati bloccati al confine fra la Polonia e la Bielorussia. La Slovacchia è un paese della NATO, ma il governo e buona parte dell'opinione pubblica considera con simpatia la Russia. Le ricerche archeologiche nell'area di Siponto, un'occasione per integrare profughi che le guerre hanno portato in Puglia. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. Su queste frequenze invece il nuovo appuntamento domenicale radiofonico con Vita nei Campi, trasmissione dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura parla dei noccioli delle olive al centro di uno studio per possibili utilizzi alternativi. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, la Fiera di Santa Caterina, la più antica e popolare nell'Udinese. Per i legumi da granella di scena alle fave, sorprendentemente molto di voga un tempo in regione. E ancora il ruolo dei tannini nella determinazione dell'abboccato di un vino. Per i grandi alberi, il cerro di Monte San Biagio nei territori di Corno di Rosazzo, il kugluf, dolce tipico locale ed europeo, nello spazio che dedichiamo alla gastronomia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. In regia Paolo Cassano e Andrea Fontanot, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Daniele Lettige e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.